La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. L'articolo 90 riguarda la responsabilità del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, salvo che per alto tradimento o attentato alla Costituzione. Quindi significa che il Presidente della Repubblica è totalmente immune da ogni controllo e da ogni giurisdizione? Ovviamente no, perché innanzitutto, come abbiamo visto con l'articolo 89, il Presidente ha la controfirma degli atti. Quindi la controfirma degli atti, da parte dei ministri competenti e proponenti, riguarda l'assunzione di responsabilità e anche una condivisione giuridica di quegli atti. Per quel che riguarda il resto, il Presidente, proprio come vertice dello Stato, ha una responsabilità soltanto per due casi estremi, l'alto tradimento e l'attentato alla Costituzione. Quindi il Presidente della Repubblica risponde nelle sue funzioni solo per questi atti estremi. In questi casi non viene giudicato da un tribunale ordinario, ma viene messo in stato d'accusa e processato dalla Corte Costituzionale, che assume una particolare composizione, una composizione a 31 giudici proprio per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica. E questo è l'istituto del cosiddetto impeachment, cioè della messa in stato d'accusa di un capo dello Stato per responsabilità politica. Essendo un caso estremo e dovendo essere molto attenti che non possa nascondere una persecuzione giudiziaria, ovviamente riceve una procedura del tutto particolare, con una competenza di un magistrato di una corte specialissima, proprio come la Corte Costituzionale in composizione integrata. Una curiosità. Ma il Presidente della Repubblica risponde come cittadino? Facciamo un caso paradossale. Se viene trovato al supermercato a rubare le mele, il Presidente della Repubblica risponde del reato o è completamente immune? Ovviamente la risposta è nell'articolo 90, perché l'articolo 90 toglie ogni responsabilità al Presidente per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni. E quindi gli atti compiuti da comune cittadino restano comunque ricompresi nella normale responsabilità giuridica.